Componimento diciassettesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Piovonmi amare lacrime dal viso, con un vento angoscioso di sospiri, quando in voi adiven che gli occhi giri, per cui sola dal mondo i son diviso. Vero è che il dolce mansueto riso pur acqueta gli ardenti miei desiri e mi sottragge al foco de martiri, mentr'io son a mirarvi intento e fiso. Ma gli spiriti miei s'agghiaccian poi, ch'i veggio al departir gli atti soavi torcer da me le mie fatali stelle. Largata al fin con l'amorose chiavi, l'anima esce del cor per seguir voi, e con molto pensiero indi si svelle. Fine del componimento.